Con Fausto Ferruzza di Legambiente per parlare della terza edizione del Festival di Economia Civile a Campi Bisenzio dal 15 al 17 novembre. Fausto, ben trovato. Buongiorno a voi tutti, buongiorno. Allora, raccontiamo cos'è questo festival. Allora, il Festival dell'Economia Civile è una rassegna tanto fortemente promossa dal comune di Campi Bisenzio, dove ovviamente si svolge e siamo alla terza edizione, con la collaborazione della Regione Toscana. Ovviamente la prima ideazione insieme al comune di Legambiente con la scuola di economia civile di Loppiano e poi ovviamente l'associazione dei comuni italiani, l'ANCI, e da quest'anno molti altri soggetti come l'ARCI, Slow Food, il Movimento Cristiano Lavoratori, il Coworking 91C di Piazza Dalmazia e tanti altri soggetti a qualche modo far comprendere che la rete delle associazioni, la rete dei corpi intermedi nella piana in Toscana è ancora viva. Come sarà strutturato il festival? Ma allora, intanto è 2 giorni e mezzo, ovviamente giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 mattina. Ci sono workshop, eventi, anche ovviamente momenti conviviali, momenti di svago e anche di ricreazione, ma dove al centro c'è un'idea di economia diversa, un'economia solidale, collaborativa, che certamente vede nel margine operativo sicuramente un obiettivo, perché altrimenti non sarebbe economia, ma è quel margine ed è un benessere ed è un, come dire, risultato economico che non va semplicemente a vantaggio dell'azienda che lo produce, ma della comunità in cui quell'azienda opera. Quindi un'idea di economia solidale, di economia per l'appunto civile, dal ricordo di Antonio Genovesi, il grande filosofo illuminista napoletano, da cui poi tutta questa vicenda dell'economia civile è partita nell'Università di Napoli nel XVIII secolo, e anche un po' il recupero delle nostre tradizioni civiche, cioè l'idea che un'economia si faccia solidale, che si faccia anche per il bene comune, per il bene degli altri, non solo per il proprio. Fausto, ci sono esempi virtuosi replicabili? Allora, intanto a Campi con questo festival, già a partire dalla prima edizione, si è andato strutturando il primo distretto dell'economia civile in Italia. E cioè che cosa vogliamo dire con questa parola un po' magniloquente di distretto, che è anche forse abusata, ma in questo caso mi permetto di dire molto invece ben utilizzato. Vuol dire che durante le fasi di interregno tra un festival e l'altro si vanno sperimentando buone pratiche amministrative, quindi per esempio lo sportello della rimozione dell'amianto, le banche del tempo affinché gli anziani possano dare in termini anche di volontariato a delle associazioni un po' del loro tempo per il bene comune, oppure le virtuose esperienze di utilizzo condiviso di alcuni utensili ed elettrodomestici della casa che obiettivamente, faccio un esempio, un trapano con la grande distribuzione si utilizzano davvero ogni tanto. Ecco, e l'idea che comunque si possano usare questi strumenti con la piena collaborazione della grande distribuzione che dovrebbe mettere in vendita invece in prestito e in cambio si dà all'amministrazione comunale, alla comunità locale del tempo, nella banca del tempo e quindi si offre volontariato al posto di soldi. Ecco, c'è un'idea di un'economia collaborativa che si va sperimentando e che si attua tutti i giorni. E poi tantissime esperienze di inclusione dei giovani, di rigenerazione di spazi urbani che un tempo erano dismessi perché le industrie, ahimè, anche in questa latitudine della nostra regione, molte industrie hanno dismesso le proprie attività. Ebbene, in quei luoghi urbani complessi dove queste attività industriali si sono dismesse, si possono creare nuove modalità di interazione, di co-working per l'appunto, di spazi condivisi anche di lavoro creativo. E tutto questo è rivolto anche al mondo giovanile. Devo dire, è un fermento di attività, di idee, di, mi verrebbe da dire una parola inglese, anche questa un po' abusata, di brainstorming, ma fecondo, un brainstorming fecondo. Ecco, tutto questo il Festival dell'Economia Civile. Oltre i 3 giorni del festival, ci saranno poi nel corso dell'anno altri momenti pubblici? Allora, intanto quest'anno vorrei dire che il Clorofilla Film Festival dà il testimone e lancia, come dire, una sfida, perché per l'appunto c'è un tema di collaborazione tra questi due eventi che hanno suggellato un partenariato molto forte. Proprio in questi giorni parte anche Urbum, che è una sorta di grande rassegna di innovatori sociali, di giovani urbanisti provenienti da tutta Italia, e che di fatto costituiscono il prequel dell'inizio vero e proprio il 15 del Festival 2018. Durante l'anno poi ovviamente faremo anche altre cose, ma ripeto, saranno poi comunicate a tempo debito, perché faranno parte delle tappe del distretto dell'economia civile 2018-2019. Fausto, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Molto semplice, www.festivaleconomiacivile.it, digitate, c'è già tutto il programma caricato, eventi sulla rigenerazione urbana, sull'economia collaborativa, sull'economia circolare, e in fondo a sabato 17 mattina un gustosissimo tête-à-tête con il Monsignor Pompili, Vescovo di Rieti, che ha lanciato le comunità Laudato Si in tutta Italia, e il professor Stefano Mancuso, che è l'inventore di una delle teorie più rivoluzionarie sull'intelligenza delle piante. Quindi un gustoso evento finale, clamoroso, perché sono due grandi personalità di livello nazionale che duettano sulla base dei dettati dell'enciclica del Papa Francesco Laudato Si. Terza edizione del Festival di Economia Civile a Campi Bisenzio dal 15 al 17 novembre. Un saluto e un ringraziamento a Fausto Ferruzza di Lega Ambiente. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo e grazie a tutti voi.